U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome? Alessandra Mussolini. Età? 53. Nata? A Roma. Eletta in? Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Con quanti voti? 83.000 voti. Partito politico? Forza Italia. Gruppo politico? Ahimè, PPE. Segni particolari? No, non ne ho. Fisici. Quante lingue parla? Inglese, italiano e napoletano. Da quanti anni è in Europa? Dal 2013. Competenze europee in 10 parole? Sanità, immigrazione, clandestini. Benvenuta nella U-Zone di Radio 24. Un titolo dalla Repubblica. In Francia la preoccupazione che i nostri conti minaccino tutti. I nostri conti, quelli dell'Italia, delle banche, di che intende la Francia che adesso si sveglia contro di noi? A noi ci attaccano un po' tutti. Tre azioni concrete in atto per la tutela dei diritti delle donne. In Europa c'è una situazione un po' delicata, perché appena si parla di donne poi ci sono i minori, poi ci sono altre categorie sociali che delle volte non c'entrano niente con le donne. Quindi per parlare solo di donne è complicato, ma noi lo facciamo alla difesa dei diritti, delle non mutilazioni, dei diritti umani in generale, sulle leggi, ce n'è da fare. Ha proposto un equilibrio di genere tra i migranti. Tante donne quanti uomini vuol dire meno rischi? La maggior parte di uomini sono quelli che delinquono, le donne non delinquono molto molto meno, quindi si favorisce una maggiore integrazione. Lei fa parte della delegazione per le relazioni con l'India, ci spiega cosa fate? Ma noi ci stiamo occupando soprattutto di quello che non sta facendo la Mogherini, cioè di tentare delle soluzioni anche diplomatiche per riportare a casa i nostri due marò. Cosa risponde a chi definisce l'Europarlamento un parcheggio per i politici? Beh, che non è stato lì, perché forse prima lo era, ed è purtroppo uno sperpero di soldi, perché c'è questa doppia sede, Strasburgo e Bruxelles, però lì si lavora tanto, tutto quello che si fa in Italia viene dall'Europa. 30 secondi per sintetizzare la sua missione europea. Soprattutto il lavoro che sto svolgendo in questa commissione LIBE sui diritti umani, sugli immigrati, sul terrorismo, la sicurezza, stiamo lavorando per questo, non semplice perché c'è sempre la prevalenza Francia e Germania, stanno ovunque e prendono tutti i posti. Nella sua carriera ha fatto molte cose, dalla recitazione al canto alla politica, dove si è divertita di più? A fare la pizza, questa è la mia ultima, mi manca di fare l'astronauta e poi le ho fatte tutte. Ha spopolato in Giappone con un disco, come mai ha smesso? Perché lì mi sentivo un emigrante, il Giappone è lontano. L'Europa è più riuscita o fallita? In questo momento è fallita, perché purtroppo non c'è un'unità, anche vediamo quello che succede con il terrorismo, con i migranti, ognuno fa quello che vuole egoisticamente senza pensare agli altri. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.